solo te, perché sei tanto bella e hai un certo non so che, ma io che sto guardando in fondo agli occhi tuoi, ho già capito cosa tu veramente sei, bambina, sola. Sola come me, bambina, sola, bambina, sola, sei una ragazza sola come me. Capito cosa tu veramente sei, bambina, sola, bambina, sola, sei una bambina sola come me, bambina, sola, sei una ragazza sola come me.